ho fatto due zucchi, non ti ho più uso e quindi la terra è asciutta e non vinne. E c'è male di più, ho fatto un po' di fiocchetti, un po' di asparagi e via. Poi siamo andati a casa, ci abbiamo fatto un paio di panini, ho detto io ce ne avevo l'acqua pura, là, forte, e siamo parati. Quattro bestioline, due, ce l'ha tenuto mio fratello, le più grandi, i due pesci, 8 kg di pesce, uno da 5, l'altro da 3. No, non mi piace di andare a pisciacciare, ora ti sì. Adesso non valizzo, prossimo mese, no, il prossimo mese non è andato ancora. Compro la barca da pesca, anche due, adesso vediamo. Secondo il prezzo è come va la latte, al lancio. Dici, in più mi vendo. Oh, sapete. Mi senti, ah, ma... Sì, voce di fare, Luca, siete Pappa Luca, ciao, che vedare! E beh, sta video, tutto a posto! Ciao, mi ascolta! Ehi, è UFO, tutto a posto, vai da parte San Video, tutto a capo! Pappa di Rogero, va bene, io approfitto a salutare, salutare circolare che mi sono stoffato poc'anzi, non so chi c'è. Alle prossime riteretevi tutti salutati da parte mia. Ciao! Ciao Grazia, alle prossime salute a te, QVA familiare, dai. Buon proseguimento di serata, avanti Luca. Ciao Buffo, buonanotte, voce 44, buonasera, buon tutto, saluto al QVA familiare, capa. Tutta la prossima che coincide, avanti di Giro Vulcano, capa. E dai, salutoni a tutti, anche io me la sto rientrando a casa, dai. Ciao Mauri! Mauro Grimina, occhio occhio al Mauro, a Mauro e Ciccio africano, Anche qua arrivi in basso, Mauro, non so se mi accoppi a me, cambio. Semmini, gli assemmini. Buona partita, dai! a Cagliari, Galizia, è venuto qua in Sassari, e domani mattina scarica il Calghero, e dopo va Urde, e poi domani sera deve rientrare a Cagliari. Yeah. Bianchino. attimo che qua, se no entra qui. Ora, guarda un po'. Non si è spostato qua niente, 9.35. A 9.40 non ci arrivi. Non ci arrivo perché bisogna raddoppiare la partenza. Dopo il 9. Io uso sempre così. Natalino, però ho sentito Roma di Succhiane, com'era? Dove devo andare? Succhi andiamo, Domenico, carissimo. Ah, Succhi andiamo, io ho sbagliato io, mi scusi, signor Natalino. Buongiorno, signor Mario, pure a lei. Buongiorno, signor Domenico. L'antenna anche io, quando mi arriva l'antenna nuova, vedrai che Domenico mi ascolta anche a me. Chiara, chiara. Domenico è sparito. Aspetta. Attento, Domenico. Ma forse è in buca? Evidentemente sì. Thank you. vicino, ma aspetta che salto l'antenna, credo io, a questo volatile che... lui si è fatto il nido in punta! Faccio anch'io il nido in punta, che glielo io il tanto a questo volatile malefico. Faccio vedere, sentire lui bene a Domenico, io no. Aspetta, quando piazzo l'antenna nuova, te lo do io, te lo do. Già, va bene, io sono contento per te, carissimo. E io, c'è traffico domenico. Domenico, traffico c'è. Thank you. che sei Natalino, dove sono? Mi è uscito uno sbadiglio che la metta a battarla. Pagava. Ehi! Ehi, in mezzo al guerrero ti sento. Tanto non c'è più nessuno, tutti a cena saranno, via. Noi stiamo parlando domenica, ma lo sento in mezzo al QRM. Ehi, com'è? C'è un po' di QRM oggi? Infatti io ce l'ho a 7, per quello che non lo sento. Gappa, domì, troppo QRM, non si capisce nulla. Ce l'ho a 7 io il QRM, tu a quanto ce l'hai? Perché? E aspetta che stiamo parlando domenica, dimmi domì. Adesso meglio, Santiago sì, Radio 5. Adesso si quasi 9. Ah no, già sta parlando, avanti Natalino. No, c'ha un sacco di QRM, Domì. Avanti Natalino. E ce l'ha a 7, se lui non arriva almeno a 7 qua non si canta messa. Tutto dai, se tutto va bene ce la riascoltiamo domani mattina quando rientrai. Ciao ciao domenica, avanti Natalino per i saluti. Ciao da me, se mi ascolti, buon proseguo, buon tutto, dai. Io c'ho troppo QRM qua, non ti ascolto per quello, capito? Mario c'è? Se c'è Mario, avanti Mario per i saluti. Mario non c'era. Gappa gappa. Si è accoppiato domenico, dai. Salutoni da tutta la volta e a domani se coincide, ciao ciao! Oh iaia, non si è sentito nessuno, vale sono, tutti a cena sono. E come siete? Sono no, un ricevitore che ci ho attaccato qua, accetto. Tu vedi da te? E io. Sì, ma che ho distratto, lo stavo guardando lo smitter, ha sentito questo, mi senti? E anche io, ma io lo chiamo, e poi ti faccio sapere, comunque lo faccio cambiare, e lei mi ha fuggito, Mi ha fuggito, non c'è andare. È un ricevitore piccolo, è questo qui. E piccolo, Pinocchio. Piccolo piccolo, se lo vedi ti metti a ridere, però riceve bene. E cosa costa quel ricevitore? Boh, non lo so, della Icom. Se non ti prendi l'acqua dei nudi? Ma quella fa resuscitare i morti. Gabagaba. Non ho sentito più a giallo più, ma che te l'ha fatto? Sarà a cena, sarà. Entreranno, ma siamo sul 5 noi, loro entrano sul 10 generalmente. Cappa. Vabbè, cosa vogliamo fare? Ci spostiamo. E forse è meglio, almeno se entrano ci sento. Vabbè, sul 10, vai. Dimmi dove? 32 preme. Cappa, un attimo che faccio con quel serio. Segnali dalla Canaria e l'altro stava arrivando da un'altra isola di lì vicino. Il più basso era 9,20, tutti gli altri erano 9,50-9,60. capo, io sto facendo cose al computer, ho acceso la cosa, ho sentito allora, dai, proseguite voi, chi c'è? Falchetto poi, ciao per Paolo, chi c'è rimasto? Adesso dal computer sto guardando una cosa, dai, semmai ci sentiamo dopo, ciao per Paolo. Positivo, vai. Cara gara. Mi Luca. E via, ciao roba. Ti hai perso una propaganda assurda su 32 in FM, Luca. Una telefonata, tutti i 950, 960 arrivavano. Una cosa da aspettare, alla fine ho chiuso, li stavo anche disturbando. Poi uno era alle Isole Canarie e l'altro non so che isola era. Perfetto, proprio mi hanno chiesto, mi hanno dato nome, però veramente sono gli amatori perché mi stavano dando il nominativo e poi mi hanno dato il nome di loro. Volevano la QSL, però al telefono parlare non se ne dà altri. Ok, continuate voi, io sto facendo cosa? C'è Pierpaolo e forse Falchetto. Vabbè, non è chiaro, beh, fa di fatto la vecchia. Andate, va, avanti Pierpaolo e Falchetto, buonasera. Beep. aspetta, ci sono le piante di vino, le fate di vino, si è travasato, gli si è travasato il Matteo. Libero per infilare l'antenna, no? Sì, anche meno, so. No, perché la distanza mi sembravano un po' lunghe, no? Devono essere così per mantenere il palo, la pittola. Però non è che faccio uscire tutti i 12 metri dal tetto, non sono fatto. Tu non hai detto che la facevi uscire da 12 metri? No, dal tetto no. Dal tetto uscirà un pezzo del palo grosso più i 6 metri dove c'è l'antenna, no? Usciranno dal tetto 8 metri, là. 8-10 metri. Prego. Avanti, prego. Buonasera a tutta la ruota, Falchetto. Buonasera, Falchetto. Buonasera, Pierpaolo, ben sentito. Insieme a FM, vai a M. Gianni, le cuffie a me ce ne hai. Non ho detto la tariffa. Che sembri in FM. Io sono da M. E poi se tu mi riapprendi, non io. Ah no, che questo è stretto di cusce, bisogna che sia centrato, se no ti sento male. Dai, dai, ti sento bene adesso. Ah, gappa, gappa. Gappa rogero. Gianni, le cuffie le hai messe? Esatto. Messe le cuffie. C'è Falchetto entrato. Buonasera Falchetto. Buonasera Gianni, ben ascoltato. Beh, sentito anche a te. E allora, con gli spagnoli come siamo andati? No, niente, stavano facendo un questo tra di loro e essere raggiungiato il canale a Bisogna Napoli. Mi hanno detto a chi questo locale? A pagarla. Era una palcura, a me mi arrivavano 9,60 in FM. Arrivavano quattro là sotto. Ma io ci vado a entrare a due muri a chi questo locale, vado a via ciao. Ma non sai, non sai cosa hai già avuto mettendo a posto i mobili? Tutte le QSL mie e più le QSL personali. Caspita. Beh, lei, sono rimaste nuove. E una me la dirà. Mi insegna il questione di adesso, così dopo io ricambierò, cara. Gaba, io te la do, non c'è problema. Adesso non mi fare alzare, guardo l'orario, dai. E ti devo segnare tutto quanto, va. Guardo l'orario, perché adesso sono le 10:10. Via. Andrà bene, così io le ricopio e ti do la mia, perché quella tua non ce l'ho. Guarda, ma io c'ho addirittura c'ho quella di Battimora e di Luna, Fior di Luna, di Graziella. No, neanche quelle c'ho. Beh, come ne sarai tu e chi non te lo dice, hai capito Luca Cugioni? Però lui dica il numero di telefono, eh? Poi queste le personali di con l'insughero, con la roccia dell'elefante, che è quella che mandavo io. Poi le conservo a te le che ti possono servire già. E mi pare me ne rimarcavano due. L'altro fatto della Svizzera, dell'Inghilterra, della Spagna, della Francia, un bel di quelle siciliane, Siracusa, Trapani, francesi, di tutti i colori. Mica, adesso si promette bene per quest'anno la propagazione. Bisogna mandare a terra e mi faccio a beffa, cazzo, mi mette l'antenna nuova, guai. Adesso mi compro il rotore e anche una direttiva, che così almeno vediamo un po' la situazione, come va. Ma già, durante una così, dovrei essere una belva. Cappa. Che c'è? Avanti, Antonio, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, Antonio. Allora. Ah, benvenuto, benvenuto. Buonasera, ben entrato. Adesso vogliamo un rapporto di risposta. farlo tirare un po' di più quello Smith. Raga, quando piazza l'antenna me la farei tirare di più, sì. Che si urla. Su che andiamo, Su, su, su che andiamo. Ah, entrate Giuseppe Ucci. Ok, è entrato e... non lo so, io sto... non l'ho sentito adesso, È entrato presto. Yeah. E sarà cena adesso, da entrare penso. Vediamo bene che va tutto bene. Poi raccontato per Massimiliano, dice che quel disturbo ce l'aveva anche lui, quindi vedrai che già si muovono. Non si sa se c'è, anche se non c'è più, non ha detto nulla, no? No, non ce l'ha, non ce l'ha, ha detto che non ce l'ha vero. Grazie. E allora sabato abbiamo colpito il segno. Sì, quando ci troviamo di persona mi dirai. Insomma, sabato già abbiamo fatto un pochettino di... vabbè, ti spiegherò là. Allora, di persona in verticale, capito? Tappa, gamba, tappa, tappa, tappa, tappa. Bello. Ma si vede già in bianco, tu? Ja. È un buon bianco, allora. Ok, sono bene, ti fa male. Ma come vedo, su. Piano, piano, avrebbe avuto la forchetta. Beh, cosa ti credi? C'è la pompetta lì ogni tanto, la suitata. Vero perché? Vero, bevo, bevo, ne mangio mangiato. Perché? Sentitemi allora, dove? Ehi, c'è la pompetta, è sempre vicino al tuo, ma che mai quella? Se no tocca alzartene, andare a trovare il garabino, invece no, tanto che la pompetta fai prima. E già fatto, già fatto. Almeno ce l'hai portata di mano, io c'ho anche il rubinetto da attaccare la pompetta, ragazzi, a quello ti devo fare un omaggio, che così apri e mi scende. E poi lo metti qua aperto, è appropriato. Ah, che bruso, c'è la casa di mio. La vaga, la vaga. Ma io aspetta che stacchiamo l'italiano questo qua. Attento collega, si ascolti Italia a nord della Sardegna che fa chiamata. Attento amico che chiama Italia, avanti. Penso sì. Se non parla più. E addirittura, attento Italia. Mi sei cantato il disco, ma già. Ma sarà calata la troppa liscio. Ragava. E sta cominciando adesso, sta cominciando la propagazione. Via, via. Basta, 960 mi arrivavano in FM questi due catà, ma li ho chiamati e non mi hanno risposto, maleducati. Per quello quando entrano là, sia la Spagna che le Canarie, a chi questo è il locale? Bene dieccia? Oh, un attimo di bianco che mi controllo il switching, che non sta partendo un vento e mi sta morendo praticamente. Ti spiego un attimino e controllo, dai. Ah, ma. Intanto finì una. Io. Tattalino, tattalono. Oh, yeah. Hai capito, ho fatto il nuovo ritrovamento. Questo mi ha fatto veramente piacere. Perché tu mi hai detto che ce l'aveva buttata quella persona, invece meno male che l'hai trovata. Vicino della Svizzera mi hanno mandato sotto bicchieri, soldi, di tutto, di più. Allora, lui di Sacciani, a me non me l'hanno mandato, mi hanno mandato a Risi via blu. La prima io avevo il P.O. Box, davo l'indirizzo del P.O. Box, 492, me lo ricordo ancora. Box 492, me lo mandavo la P.O. Box. Ma cazzo, non conviene affittarcelo un P.O. Box? Non so quanto si paga. Io lo so che si paga. E pur gattando, e pur io lo posso avere perché non ti preoccupare, vado a parlare, perché a me mi serve, faccio più fretta e tutto col PO Box. Sì, io se voglio ce l'ho subito, tu dico Antonio, direttore. E tu, e infatti, capito? E questo PO Box? Della postale, ragazzi. Ah, cazzo, ho capito adesso. Tipo come quello che ti puoi aprire all'occasione, eccetera, eccetera. E tu non vuoi dare l'indirizzo in casa tua? Ti danno le PO Box e ti arrivano alla posta. Ci sono delle caselle, tu li apri con la chiave, c'è la chiave, non apri e ti prendi la posta. Ma cazzo. Eppure me lo devi insegnare come si usa. Esatto, lo dicevo, non c'è problema tu. Chi può mattina Antonio quanto si fa è tutto già. Se ne accusava se ce ne sono liberi. Sì, a voglia, chissà quanti ne avranno messo. E passando dalla posta centrale, poi da cattivo di no, ma una posta vicino a noi bisogna capire. Ma nelle altre poste non c'è meno. Sì, e ci sono anche nelle agenzie normali adesso. Informati da Antonio. Poi non tanto al mese però, Vabbè, che cosa pensa? Però se le usi, poi anche per la privata, tutte queste cose che non perché ci mettono le zampe gli altri. Sì, va. Signor Billy, io vi saluto. QRT da parte mia, dai, saluto Giardi, Natalino, Vela e Antonio, dai. QRT da parte mia. Ciao Franchetto, ciao, a posto, sì, tranquillo. Gappa, gappa. Avanti, tanto. Buonanotte, ci risentiamo. Ciao perché buonanotte, era durante l'illusione che mi si è indicata, ma papà sei diventato, no, sono un po' in paranoia, poca voglia di parlare, dai. Buonanotte a tutti, dai, ci ascoltiamo le migliori, ciao. Ciao, ciao Franco. Tutti non ti abbassare, che la vita è bella. Gappa, gappa. Avanti. Rimasto Pierpaolo, sta facendo quel lavoro, è finito Pierpaolo. Il culato sta ancora facendo. Ma che vento la si è bloccato? No, un alimentatore dello switching. Si è bloccata la ventola e se no si rinuncia. Già sono cavolate, sicuramente. Già la volta subito. Può essere anche la polvere. Sì, sicuramente. Qui noi abbiamo lo spray da vaffanculo, va. Abbiamo lo spray adatto. Lo spray? Ti ho sentito. Spray? Lo spray adatto. Magari. C'è quello a bomboletta. Quello che si soffia l'aria prima e poi c'è lo spray per contatti. Quello secco ce l'abbiamo anche. Anche io ce l'ho, quello che si asciuga su. Quello che non ti lascia i sui cose. Volevo, sì, già lo so. Già lo so, sì. Bello quello lì. Bene. Ma sicuramente, probabilmente la polvere, perché ne ha come una volta. Già lo so. Sì, c'è un rumore da te, lo senti cu cu cu cu cu cu. E vabbè di propagazione. Eppure qua mi arrivavano forti, eh. Eccomi qua. Risolto? Sì, io ho spruzzato un po' di liquido ed è partito. E allora era la polvere. E adesso non ho voglia, domani lo apro bene. Soffiata perché ho notato se ci tira la polvere dentro questa cacchio di ventolina, domani gli do una soffiata con la pressione e gli sfruttano da un pochettino di cosa, adesso già sta andando. E magari la polvere che la blocca, io dovrei aprire il mio per controllarlo se è polveroso, ma penso proprio di sì. Io no, oggi qua ce n'era parecchio, ho passato il pennellino e ho spruzzato un po' di cose e già è partito. pagare. Anche la poi non rotto, mi canto e non è di mai. Mi la messo subito. E cosa ci sta facendo, lo vuoi? C'è già bloccata anche l'altra volta e praticamente vedo lei inizia a vedere le frecce quando inizia a scaldare impazziscono, vanno da una parte all'altra. Faccia l'avviso di garanzia guardi Natalinos via e anche io ce l'ho uno switching effettivo però questo è nuovo. Anche una ventolina, fini, una ventolina, parlo di una frase completa, va, del Kaiser, mi pare che pongo anche sui ventolini di computer io per tirare meglio. E infatti, tu sai già com'è quella lì, quando vuol dire me lo farà a me, io pure farò una cosa del genere. Io già ci ho messo, in quella grande mi ho messo due di ventole, poi mi ha giù una finoglia e la riduce sulla ventola, per non guardare i finali, però quello l'attacco quando fa caldo, allora se fa caldo, dici, solo nello switching va automatico. E anche questa poi quando schiaccia la portante aumenta di giro da solo, no? È una ventolina del cavolo, è finito. Piglia bene di più, però, se lo tira da poi a chi tira da fuori a dentro l'aria e quindi è logico che si tira pure più, però. Però è un aumento di del cavo, quella del computer, non dico quella grande della alimentazione, parlo di quella che c'è dentro il computer mio, quella proprio quelle piccole, sono piccole così, quelle che ci sono all'interno dei PC. Ma dentro gli alimentatori? No, non quelle dentro gli alimentatori, quelle che ci sono all'interno della mesa ci sono uguali all'interno del PC. E nel processore ce n'è una. Quella del che c'è il processore, quella piccola. È piccola così, mi. Scappa, mi sembra che ce l'ho qualcuna di quelle lì. Io già ce l'ho già. Mi mettono di quelle, anche quelle non si fermano mai, quelle del computer, lì se vai che se invece è un cosolino, un ciufolino, è brutto. Infatti adesso me la cerco, non già ce l'ho una di quelle piccoline così come stai dicendo tu, di quei computer vecchi. E infatti ci metterò una di quelle, è barotto. Io c'ho qualcuna, una l'ho già operata, è un altro, e adesso la cambio anche io e ci metto quella, perché chi non si ferma mai, boh. E guai se si ferma il mio computer, perché si inchioda tutto. Appunto, sono buone, e quelle stesse aspirano aria, e polvere ne prendono, però non si fermano, invece questa, boh, ha un particolare che non fa di schifo, là, insomma, si sono lasciati andare in questa ventolina. E infatti, è pittina, è proprio nell'alimentatore che cazzo comincia a bullire e ti copia, mi sta diventando così la ventola non funziona. Ma io mi se ne ho voglia domani stesso, quando apro per spruzzare l'aria, la cerco e gliela metto direttamente lì. E infatti, ti conviene, dato che lo stai aprendo, gli fai l'applicazione e via, gli la togli quella lì e gli metti quella al computer. Ma no, ma che amico, che non la posso mai più a Edda. Gianni! Ehi, io domenica ti sei? No. Più lontano. Ma che lo sono? Ti sento con la voce stanca, già. Mi sa che ti stai addormentando, eh? No, Antoni. Non faccio la buonanotte. Ma che, nonno? Buonanotte, sogni d'oro. Grazie, altrettanto. Buonanotte, non ce lo dai. Poco male di te, sta addormentando. Mi inguette. C'è quello spacciatore di Lucca, c'è anche. Allora, può comune, tu e quello vuole l'altarino. Provocato! C'hai capito, bello bene. Cosa vuoi? dedica il numero di telefono. Non parli adesso, ti manda a mangiare un bocadino di mammo, ti mando. Aspetta, ci vuole una mia amica, ragazzi, boh. Brigetta non era un gardone, le dai la brigata, che è pittina, parlano di Brigetti, siamo in brigata, ma sono trans, vuoi buongiorno a te, sì. No, no, sei trans, ben il dia. Ma no, visto, tu lo conosci, un tram, un puma. Un puma, sì. Lo tieni la bomba lì, no, non ci interessa. A noi ci piacciono solo le donne, Luca. Sono dietro la presenza, se viene qua. Vuoi che ti mandi? E così mi viaggi. E poi dico altro, aggiungo altro. Dico solo che c'è una ottava, boh. Carta, chi c'ha mi sudruneggia che pigli sta faccia? Mi vado a vedere la tua, ma ho 80 anni, ragazzi. Sei da Luca. Sono i blu. Ma Un saluto prossima. Buona prossima, alle prossime. Ciao, ma ci sentiamo comunque, buon pomeriggio, buonanotte. Io lo sai cosa fa Pierpaolo, anche Pierpaolo fa un 144, vi saluto tutti cordialmente, ce la riscoltiamo le prossime domani. Ciao ciao! Questa la facciamo per parà, anche io me la chiudo. Ci sentiamo alle prossime, dai, ciao a tutti. Ciao, dai, ciao. Sì, dai. Ci sentiamo. Alle prossime. Mi sono dovuto spendere dopo tanto tempo 300.000 euro. qui a Col Terminal 9, lì mi sono bloccato, non ho più comprato nulla, perché era perfetta, non potevo comprare nulla. Una tampone che mi ha fatto soddisfazione era FT250, ma a lavorare usciva da 0 a 100 watt e era banda stretta. Non potevo colpi per niente, ci poteva essere uno con un'antenna attaccata, io riuscivo tranquillamente a ascoltare e parlare. Figurati, non potevo splatter. No, no, anche questo, guarda, no, non mi posso lamentare assolutamente. Va alla grande, va. Tu faccio anche fino alla MOSFET, se li stupisci, R non mi ha messo d'oro. Guarda, di questo io non mi posso assolutamente lamentare, anche questo non è figlio. No, se sei vicino ti sento. Però cosa succede? Se c'è un segnale tipo come il tuo, per dire, io ti sento lo stesso a te, magari sento la pernacchietta, sento, però io a te ti intengono me stessi. È diverso dagli altri apparecchi, tu prendi un AM48 normalissimo, quello classico, a fughiso, a battimenti, un casino, non intende più nulla, e alcuni apparecchi, questo non è così, questo anche se tu lo senti, però se tu arrivi con un segnale buono, senti a te e basta. È buono come apparecchio, ci vanno bene, già sono questi gli apparecchi buoni adesso in questo periodo, meno male. Ce n'era ora, chissà che facciano anche gli apparecchi moderati tipo cosa, con processore, microfoni, con coso, con frequenzimetro digitale, con video digitale, che li facciamo sempre le base, 220, vedi, quindi sono bellini. Così, se poi farebbero limite un tipo con la macchina, non ti posso fare le base come ce ne è. Come sapevo belli, poi modificabili, per dire, con le base laterali. E purtroppo invece stiamo facendo una maggior parte di PMFM, ci siamo messo a parte con le bande laterali, siamo stati dei bombo con gli apparecchi. Meno male che li hanno fatti così questi ultimi usciti. Io sono innamoratissimo, che prima o poi il giorno che mettono i soldi in mano me lo compro, del Magnum. Sia l'S9 sia l'S89, no, l'S89, caspita, sono degli apparecchi stupendi, che a me piacciono tantissimo, e poi non c'è bisogno di mettere né microfoni amplificati, nulla, tipo questo, se tu l'attacchi va bene già dalla casa, no, niente da dire proprio. Sì, vabbè, a me piace quella roba lì, a me invece mi piace questo tipo di apparecchiazione che è molto migliore, mi ha dato un sacco di soddisfazione, con il fatto che c'è faccio bene che mi ascoltano tutti, ascolto tutti, capito? Tipo è zero, non disturbo nessuno ed è perfetto. Questo c'è più di 15 anni l'apparecchio, figurati, e io ho pagato 1,5 milioni, dove si pensa. E ancora sta funzionando, non mi ha dato problemi, per il momento spero che non me li dia mai. Allora non scappano, adesso un apparecchio buono, lo paghi massimo 400 euro, ma un apparecchio completo di tutto, 300 euro, cioè completi di tutto, che non si può dire niente. Ma prima o poi me lo uno di chi c'è, o mi prendo l'S9 o l'S8, 9, no, adesso non me lo ricordo bene. Apparecchi bellissimi, a me piacciono molto, l'ho già visti, le funzionalità sono alla grande, no, non ci può dire niente, guarda. Ma sto prendendo allora con i tiri soldi per Natale, per Pasqua, se loro di meno lo ce l'hai e vedi la differenza che c'è. Ma io ho deciso che adesso se li prendo nuovi, non ne voglio più roba vecchia. questo punto completamente nuovi, perché questi di adesso che stanno facendo mi piacciono molto. C'è gli uomini di apparecchi, c'è una stazione base degli anni 70, ti puoi immaginare, però non lo so. Questo è uno nuovo, che sia, che non abbia problemi, che sia tranquillo e che ti soddisfi. Capito? Aspetta, che cosa ti sto scordando? Allora, sono sceso a 10. Aspetta, andrà bene. Ma si è cibato? Non ci batte i soldi, quindi ci è piccolo. Ma prima stavo arrivando e se si è sceso a 7. No, c'è un sistema logico questo. E quindi se dovessi salire a 100, aspetta. Se tu vai a piedi, sembra il capo che c'è da primo piano. così legale di Perli, fa parte del, come si chiama, Aliba, che non ha sempre usato, capito? Sì, ma erano uguali, che avevo detto fatto anche a me dopo un mese con me, da quelle condizioni di manevano. No, mi fa colpa mia, no. La prima volta si pigiava lì, le zampine sono piccole una volta mi hanno tirato lo stile così, si spaccava al limite, ma non si piegava. Sono antenne buone in giro, ne ho visto anche nuove, la nuova Grand Prix ho visto anche, 12 dB, 24 radiale mi sembra che c'ha. Prima di tutto sto dicendo in terra, io ho detto l'altro radiale come Grand Prix, ogni attimo vai vazia, mamma mia. Ma lei è tutta diversa questa, c'è già... Ho visto quella, ne ho visto un'altra, già ce ne sono antenne. Comunque la Grand Prix va molto bene in città, a distanza non va bene, a distanza non va bene l'arrivo, la prima uscita. Io ho fatto le prove, portava la Grand Prix l'arrivo, c'era una bella differenza. Poi ho provato la Firenze 2, che non abitavo prima, poi ho la B27L e poi avevo comprato la cosa. La Mantova, prima la 1, poi la 5 e poi la Turbo. Ma non c'è nessuna differenza tra la 1 e la 5. No, non cambia niente. La Turbo un pochino cambia, mi è basta. La 5 e la 1 pigliano più mondezza. La Turbo è più di meno di mondezza, la verità. Perché io quando ho pesato non riuscivo a volare con nessuno, cioè quando i talici si sentivano 9-10, non sentivo più nessuno. Se uno non saliva 9-9, 9-10 non sentivo per niente. Tra la 5 e la 1 non... Sono le stesse, cos'è? Senza larghezza di tutto uguale, non li cambia niente. Ma sai cos'è? Pesa solamente un pochettino di più, ma invece la Turbo cambia un po', c'ha uno c'ha 5,7, l'altro 8 dB e basta, no? Poi i bassi sono gli stessi, tutto lo stesso. Diciamo che la Mantova gli ha fatto un po' uguale. Ah, ho usato anche la Superbibus per l'esattezza, se mi hai ricordato. Una volta ho pensato la Superbibus nel caminetto. E tra la Mantova, la Superbibus c'era si arrivava 9:15, con la Mantova con quella Superbibus si arrivava 9:12, 9:10. La mia eccezione è molto meglio la Superbibus, sentivo quel RM0 e le modulazioni tutte pulite. Poi l'avevo regalata con la della mia sorella, mi sono lasciata i punti e quando l'ha fatto per blocco l'ho lasciata anche io e non l'ho più tolto. E quando lei casa di sopra, poi non si era fatta la mondezza. Poi la Turbo raccoglie più mondezza? No, la Turbo no, la 5 sì. Bravo. Ma lo sto facendo io c'ho 80, se tu fai la prova, questa cosa la cogli subito. Quando un apparecchio prende mondezza, cioè quando un'antenna prende mondezza oppure no. Perché questo da cogliere tutto questo apparecchio qua. Oppure sono precise, sono identiche, sia la 1 che la 5. Se ti succede con la 2 ho sentito molto meglio, con la 5 sentivo il quadro molto forte. Di qua, scarichi di me tutto sentivo. Ma dipende anche dalla zona. Esatto, fino alla metà d'accordo se io avessi beccato il rizzetto quei problemi non li avrei avuti perché il traffico lì non ce n'era. Poi non c'era il traffico della 15.000 che c'ho qui. Lì era un pascià, un rurale, sentivo solamente gli scarichi dei cosi, dei fumi quando il temporale stava avvicinando la strada, di basta. Stasera chiudo, dai, ti auguro una buona notte, sono un po' stanchino, ci risentiamo tutta domani alle prossime, ciao, buonanotte a tutti gli ascoltoni. Sì, ciao a tutti, ci sentiamo, saluto, buonanotte, state bene.